Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Dopo la proposta di Conte di un taglio dell'IVA interviene il governatore di Banca Italia Visco. Serve una riforma complessiva, non procedere su una singola imposta. Consumi in forte calo anche a maggio, secondo Confcommercio, meno 30%, male soprattutto bar e alberghi. Condizioni stabili per Alex Zanardi, i medici valutano se interrompere il coma farmacologico. Omicidio Sacchi, prima condanna, 4 anni per droga a Princi, amico di Luca. Calcio, Serie A, si riprende a giocare in campo stasera Lecce Milan, Fiorentina Brescia e Bologna Juventus. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. All'indomani della chiusura degli Stati Generali, il Presidente del Consiglio Conte ha lanciato la proposta di un taglio delle tasse, in particolare dell'IVA, ma su questo interviene il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che frena dicendo che per la questione delle tasse occorre una riforma complessiva e non procedere su una singola imposta. Sentiamo. Una misura costosa, il taglio dell'IVA, lo riconoscono ufficialmente il Premier Conte, il Ministro dell'Economia Gualtieri, ma anche i colloqui con le parti sociali durante gli Stati Generali hanno rafforzato la convinzione che il rilancio del Paese non può fare a meno di una spinta sul lato della domanda. Si tratterebbe di un bel elastico per i consumi, ha anticipato la Vice Ministra Castelli, che potrebbe essere accompagnato ad una riduzione dell'IRPEF e la fiscalità di vantaggio per le imprese. Così il Ministro degli Affari Europei Amendola, intervenuto a 24 mattino. Ma la rimodulazione dell'IVA ne abbiamo già discusso quando abbiamo fatto la prima legge di bilancio, e lei si ricorderà tutti i calcoli. Sono tutte scelte che vanno fatte in base alla compatibilità di bilancio. Sulla riforma del fisco serve una visione complessiva e non imposta per imposta, dice intanto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che torna a chiedere un piano per la crescita. Bene l'ipotesi del taglio dell'IVA per Coldiretti, si va nella giusta direzione, ma servono certezze, dice il presidente di Confcommercio Sangalli. Bisogna passare dagli annunci alla concretezza dei risultati. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto, secondo Confcommercio, anche il mese di maggio fa registrare un forte calo dei consumi nonostante la fine del lockdown e la graduale ripresa delle attività con la fase 2. La domanda delle famiglie ha stentato a ritrovare la strada del recupero, mettendo a segno un meno 29,4%. Tra i settori più colpiti, il tempo libero meno 92%, alberghi, bar e ristoranti meno 66%, abbigliamento meno 55%. E andiamo al bollettino clinico per Alex Zanardi, ci colleghiamo con Ubaldo Cianciulli. Poco fa sono arrivate delle notizie, ma non ci sono grosse novità, vero Ubaldo? Sì Alessio, buongiorno. La novità in pratica è che non ci sono novità nel nuovo bollettino medico, le condizioni rimangono ancora stabili per Alex Zanardi e questo nelle condizioni in cui si trova è già una notizia positiva, quindi non c'è stato alcun tipo di peggioramento. Ha trascorso quindi regolarmente la terza notte nel reparto di rianimazione di terapia intensiva delle Scott di Siena. Da oggi però i medici si riuniranno in equipe multidisciplinari e inizieranno a valutare quando risvegliare Alex Zanardi dal coma indotto farmacologico. E questa diciamo è l'unica novità ed è l'unica speranza per Zanardi, che questi prossimi giorni, questa settimana saranno decisivi per lui. Una volta risvegliato i medici potranno capire se e quali eventuali problematiche neurologiche può aver subito dall'incidente. Incidente che per quello che riguarda l'inchiesta intanto ha accertato che non c'è stato un uso del cellulare sconsiderato da parte di Zanardi nel momento in cui ha perso il controllo della sua handbike. Gli inquirenti stanno cercando di capire se l'incidente sia stato determinato da l'asfalto non corretto o quindi non con qualche buca probabilmente, oppure se c'è stato un cedimento strutturale dell'handbike. Sta di fatto che Zanardi è schizzato come un pallone, così l'ha descritto l'autista del tir che l'ha impattato, e non ha potuto fare altro l'autista che cercare di deviarlo sterzando in mezzo. Questo perlomeno ha evitato un impatto frontale ancora più disastroso sarebbe stato per Alex Zanardi. Aspettiamo nelle prossime ore il nuovo bollettino medico e incrociamo le dita. Grazie Ubaldo Cianciulli. Ancora la cronaca adesso, prima condanna nella vicenda legata all'omicidio di Luca Sacchi, il 25enne personal trainer ucciso nella notte del 24 ottobre scorso davanti al John Cabot, un pub della zona di Appia a Roma. Il GUP di Roma ha inflitto 4 anni di reclusione nei confronti di Giovanni Princi, amico d'infanzia di Luca. Princi è accusato del tentativo dell'acquisto di 15 kg di marijuana. Un uomo di 75 anni ha ucciso la moglie coetanea, malata di Alzheimer, soffocandola con un sacchetto di plastica in testa. Poi ha tentato di togliersi la vita lui stesso. Allo stesso modo, l'uomo è stato salvato dalla badante. Successo questa mattina a Rimini, in via Coletti a San Giuliano Mare. L'uomo adesso è ricoverato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Via libera allo sbarco dei 211 extracomunitari salvati in acque internazionali dalla Sea-Watch. Davanti al porto di Empedocle nel pomeriggio invece il ministro Lamorgese incontrerà la maggioranza per valutare le modifiche dei decreti sicurezza. Confermato il naufragio davanti alle coste della Libia, anche se non ci sono notizie certe sul numero di morti e dispersi. La conferma è arrivata dall'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, mentre in Italia è stato dato il via libera allo sbarco dei 211 migranti salvati in acque internazionali dalla ONG Sea-Watch. Tutti sono stati trasferiti sulla nave quarantena Moby Zaza, dove dovranno rimanere per 14 giorni, davanti a Porto Empedocle nell'Agrigentino. Procede poi da parte della politica il tentativo di modificare i decreti sicurezza. Oggi alle 16 il ministro dell'Interno Lamorgese incontrerà al Viminale i rappresentanti della maggioranza. Si riparte dal punto in cui il governo si era interrotto, le osservazioni del Presidente della Repubblica. L'idea iniziale del governo era quella di cambiare i decreti sicurezza in due punti, segnalati da Mattarella, limando solo marginalmente altri aspetti controversi. Ma una parte del PD è convinta che servano modifiche sostanziali. Chi non vuole una revisione consistente dei decreti sicurezza è invece il Movimento 5 Stelle. Toccherà alla ministra Lamorgese arrivare ad una non facile sintesi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora l'andamento della pandemia di coronavirus nel mondo. Giornata di contagi record ieri a livello globale. Secondo l'OMS, in 24 ore ci sono stati 180.000 nuovi casi, il massimo toccato dall'inizio dell'epidemia. Pesa soprattutto l'andamento dell'America Latina. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha registrato 183.000 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Si tratta del numero più alto di contagi in un solo giorno dall'inizio della pandemia. Oltre 50.000 di questi nuovi casi sono stati registrati in Brasile, a seguire poi negli Stati Uniti e in India. Da alcune settimane, infatti, la pandemia rallenta in Europa, ma continua a registrare numeri molto elevati nelle Americhe. In quella del sud, il paese nella situazione peggiore è certamente il Brasile, che ha superato i 50.000 morti e oltre 1 milione di contagi ed è così il secondo più colpito al mondo dalla pandemia, dopo gli Stati Uniti che, nonostante Trump rivendichi di aver gestito con successo la crisi sanitaria, contano circa 120.000 morti e oltre 2,2 milioni di contagi. A New York, intanto, dopo oltre 2 mesi di lockdown, 400.000 casi e 25.000 morti, parte la fase 2. Riaprono i ristoranti all'aperto e alcune attività commerciali e produttive. In Germania, invece, si teme una seconda ondata dopo il focolaio registrato in un mattatoio del Nord Reno-Vestfalia. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È un richiedente asilo libico e si chiama Kairi Sadallah, il 25enne arrestato ieri in Inghilterra con l'accusa di aver accoltellato 6 persone in un parco, uccidendone 3. Gli inquirenti seguono la pista del terrorismo. La Gran Bretagna oggi si raccoglie in un minuto di silenzio per le 3 vittime del cruento accoltellamento di sabato a Reading, tra cui un professore di 36 anni ed un americano di 39 anni che si trovavano al parco. Anche lui, Kairi Sadallah, l'uomo arrestato per aver commesso quello che la polizia ha definito un atto di terrorismo, era residente nella cittadina ad ovest di Londra, ma aveva ottenuto asilo politico dalla Libia. Dal 2019 l'uomo era nel radar dei servizi segreti britannici, che però non lo avevano ritenuto pericoloso. Il 25enne attentatore aveva tuttavia scontato una condanna in carcere ed era ritenuto un violento con problemi mentali. Gli inquirenti che lo stanno interrogando ritengono che abbia agito da solo, ma continuano con un indagini a tutto tondo per accertare possibili affiliazioni con Al-Qaeda o ISIS. Dall'attacco terroristico a Westminster nel 2017, il nucleo antiterrorismo britannico ha già sventato altri 25 attentati e al momento sta investigando 800 potenziali terroristi. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. E siamo allo sport con il calcio. Dopo le partite di recupero si torna a giocare da oggi la nuova giornata di Serie A post-Covid. Carlo Genta, ciao Carlo. Ciao Alessio, ciao a tutti. Sì, è anche una testa di giornata molto interessante perché vedremo in campo stasera alle 19.30 Fiorentina e Brescia e Lecce-Milan. Poi la Juventus questa sera a Bologna 21.45, dunque già qualcosa di interessante, così come qualcosa di interessante quello che abbiamo visto ieri, perché abbiamo avuto le conferme dell'Atalanta, solita Atalanta, come se nulla si fosse interrotto, 4-1 a Sassuolo, e la conferma anche di un Inter che è in eccellenti condizioni, 2-1 alla Sampdoria, ma giocando molto bene, soprattutto uno splendido primo tempo e un grande Eriksen. Quindi queste sono notizie importanti per il campionato che riparte di gran carriera, praticamente come sai si gioca ogni giorno. Certo, sarà un'estate, un inizio d'estate e anche più in avanti molto molto calcistica. Carlo, grazie, ciao, appuntamento con alla te prossima. Naturalmente con tutti i convocati dopo il GR delle 14. Noi adesso facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco con le altre notizie. 349-238-6666, parleremo del parco eolico, una centrale di pale eoliche che si sta progettando a Rimini, ma che insomma è già contestata prima ancora di nascere, come è normale per opere che dividono come queste. Poi la proposta di un sindaco lombardo, stanno riaprendo i centri estivi, tra poco lo faranno anche le materne nel mese di luglio. Ebbene, la proposta è questa: i bambini facciano a meno delle mascherine. A tra poco. Hai scoperto che per andare a lavorare non serve andare in ufficio, per fare un meeting con i fornitori non serve una sala riunioni e che per incontrare i clienti basta essere connessi in sicurezza. Perché con Vodafone Business hai anche Microsoft 365 e il tuo posto di lavoro è ovunque tu sia. Il tuo lavoro digitale, la nostra soluzione per renderlo sicuro e sempre connesso. Chiedi al tuo consulente Vodafone Business o vieni su voda.it/lavoro digitale. Ready? Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Dopo la proposta di Conte di un taglio dell'IVA interviene il governatore di Banca Italia Visco. Serve una riforma complessiva, non procedere su una singola imposta. Condizioni stabili per Alex Zanardi, i medici valutano se interrompere il coma farmacologico. Omicidio Sacchi, prima condanna a 4 anni per droga all'amico di Luca Princi. Riaprono i centri estivi, nei prossimi giorni lo faranno le materne. Il sindaco di San Giorgio sul Legnano scrive a Fontana: i bimbi facciano a meno delle mascherine. Calcio, Serie A di nuovo in campo, stasera si gioca Bologna-Juventus. Le 13:16, eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori, con Effetto Giorno. Come anticipato nel sommario, prima della pausa, parliamo di una proposta che arriva da Rimini, una centrale eolica a largo di Rimini e di Riccione, un progetto per diverse 59 pale eoliche di un diametro di 80 metri, alte fino a 125 metri, che fanno discutere. È un'operazione che si è messa in moto da molto tempo, nelle scorse giorni sono state fatte le richieste di autorizzazione e c'è già chi vorrebbe bloccare questo progetto. Parliamo del comune di Riccione, che ha annunciato una presa di posizione contraria, un referendum consultivo per dire no alla realizzazione. Una volta tanto invece le associazioni ambientaliste sembrano divise tra chi, come Lega Ambiente, parla di un progetto ambientale. Abbiamo appena finito di celebrare agli Stati Generali dell'Economia una possibile transizione ecologica che necessita però di energie rinnovabili, e chi invece, un'altra associazione ambientalista come Italia Nostra, è fortemente contraria, parla di un progetto mostruoso. È con noi il presidente della provincia di Rimini, uno degli enti patrocinatori di questo progetto. Lui è il sindaco di Gemmano, Rizziero Santi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, Santi, effettivamente, insomma, finché parliamo sulla carta di transizione ecologica siamo tutti d'accordo, quando poi si parla di singoli progetti si vorrebbe sempre farli altrove. Centrali, per esempio come questa, che a detta di questa associazione per la tutela ambientale del paesaggio Italia Nostra, ma anche della Lega, che è contraria, governa il comune di Riccione, insomma rischiano di deturpare, di cambiare lo skyline del mare, di arrecare danno. Prima di parlare del progetto le chiedo di rendere conto di queste critiche che sono arrivate sul vostro territorio. Qual è la preoccupazione principale? Ma la preoccupazione principale è che, per dire la verità, è molto limitata, perché poi dopo non significa che chi alza immediatamente la bandierina del no sia il rappresentativo di tutto il mondo. Non è così, si sono sollevate delle preoccupazioni che peraltro sono preoccupazioni di tutti, cioè nel momento in cui si sta ragionando di un progetto di questa portata è chiaro che siamo attenti a quello che può essere l'impatto sul territorio, sul paesaggio. Perché noi vendiamo turismo, per cui è chiaro che il nostro paesaggio costituisce un patrimonio molto importante. Tuttavia dobbiamo metterci d'accordo se, quando si scrivono i documenti, bei documenti, bei bellissimi appelli e quant'altro, quando si tratta di passare al dunque, sì, alla fattibilità, al ragionamento concreto sui progetti che vengono presentati, se diciamo dei no preventivi o se invece diciamo andiamo a vedere. Ecco, a proposito di andare a vedere, allora si tratta di un progetto che prevede 1 miliardo circa di investimenti, 150 posti solo per la gestione proprio dell'impianto, ma più migliaia di posti di lavoro per quanto riguarda l'indotto. Sono due le aziende italiane coinvolte che hanno richiesto, diciamo, l'autorizzazione al Ministero. Sono la Fortore, una società foggiana specializzata in questo settore, l'eolico, e poi la 3R Energia di Riccardo Ducoli. Sono messe insieme, hanno formato la Energia Wind 2000 e il comune di la provincia di Rimini, se abbiamo capito bene, è dall'inizio che diciamo sponsorizza questo progetto. E in che fase siamo dal punto di vista, diciamo, attuativo? Perché sappiamo che sono state fatte richieste pochi giorni fa per quanto riguarda per esempio la concessione demaniale, cioè il braccio di mare che deve collegare l'impianto alla terraferma. Sì, non è un progetto della provincia, come diceva lei giustamente, è un progetto di privati che si sono presentati sul territorio. La provincia tuttavia di Rimini è da tempo, da prima ancora che si volessero chiudere le province e quant'altro, lavora su questo aspetto specifico, tant'è che abbiamo un piano che risale al 2007, un piano per sul clima, che 2007-2020, e poi nel 2012 è stato approvato un piano di azione provinciale per promuovere il risparmio energetico e le fonti energetiche rinnovabili. Ecco, su questo filone di ricerca, di ragionamento, sì, di lavoro che è stato fatto, oggi ci troviamo nella concretezza di poterci misurare su un progetto concreto che ha già avviato la sua procedura autorizzativa, che peraltro è una procedura che garantisce tutti, perché siamo nella fase del rilascio delle concessioni demaniali, per cui in questi giorni chiunque si ritiene comunque interessato a dare parere, no? I pescatori, il mondo della pesca, può intervenire, certo, può intervenire nel merito. Successivamente lo potranno fare le associazioni ambientaliste, le istituzioni locali, partecipando diciamo alle sedi, ai tavoli appropriati per discutere di certo, impatto ambientale. Questo è il normale iter quando si fa un progetto che ha questo impatto, si cerca di coinvolgere anche le varie componenti del territorio. Io però la domanda gliela devo fare: perché, se in qualche modo la provincia di Rimini, il progetto non è della provincia ma è stato, come dire, immaginato, anche spinto, patrocinato dalla provincia di Rimini, perché le pale si troverebbero davanti a Riccione e non davanti a Rimini? No, veramente non parliamo di Riccione in particolare, parliamo dello specchio di mare che va da Rimini fino a Cattolica, per cui coinvolge quel litorale. Naturalmente si parla di una distanza sulla quale dovremmo ragionare, delle 6 miglia e delle 12 miglia, e si parla di pale che hanno una certa altezza, per cui insomma è chiaro che hanno tutto ha un impatto, diciamo, quindi si tratta solo di valutare i costi e i benefici. Ecco, a proposito dei benefici, perché l'impatto è chiaro, ci sarebbero queste pale, per quanto lontane una decina di chilometri, quindi non proprio, come dire, vicine e in grado di deturpare il paesaggio, ma sì, sicuramente si vedrebbero. Le comunità locali che vantaggi avrebbero? Perché accordi di questo genere spesso si fanno con delle royalties, con degli impegni a ridurre la bolletta energetica, per esempio della popolazione ospitante o quant'altro. In questo caso, ecco, qual è l'accordo su cui si sta lavorando? Qui, a parte tutto l'impatto, diciamo così, il beneficio di carattere ambientale, sociale e quant'altro, il lavoro, eccetera, c'è sicuramente da discutere nel merito anche di un ritorno diretto sul territorio dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico, e su questo la legge dello Stato non prevede già la possibilità di entrare immediatamente in gioco, perché tutto quello che viene prodotto viene disseminato nella rete nazionale, ma noi riteniamo le condizioni comunque le condizioni sia opportune per far sì che di andare a discutere, a contrattare, a trattare il beneficio diretto sul territorio e non lo funzionano. Abbiamo anche un problema con la linea, con il presidente della provincia di Rimini, Rizziero Santi. Io la ringrazio, anche perché insomma, nei prossimi giorni su questo progetto le novità potrebbero arrivare dal comune di Riccione, che come dicevamo ha annunciato per giovedì una seduta del consiglio comunale per prendere una posizione contro questo progetto e far svolgere un referendum consultivo, immaginiamo per cercare di bloccare la realizzazione di questo progetto. 59 pale eoliche, una potenza di 330 megawatt, quindi una centrale di media potenza, per quanto riguarda energie completamente rinnovabili. Quindi sentiremo nei prossimi giorni se ci sono sviluppi sul fronte di questo centrale elettrica davanti a Riccione. Adesso invece, è il, come dire, la proposta che arriva da un sindaco della Lombardia, quindi una zona colpita dal coronavirus, è una proposta e anche, come dire, un po' un amo lanciato così nel mare delle autorità e anche un po' delle sensibilità in questo momento nel quale l'epidemia di coronavirus è, secondo tutti gli esperti, in una fase, come vogliamo definirla, di arretramento, di indebolimento. Registriamo semplicemente la cronaca, pochi contatti legati a code dell'epidemia che abbiamo conosciuto, quindi pazienti in RSA, operatori sanitari, familiari di pazienti ammalatisi in passato. Ebbene, la proposta di questo sindaco è di venire incontro ai bambini e soprattutto di togliergli la mascherina. La proposta è del sindaco di San Giorgio Sulegnano, Walter Cecchin. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Allora, io ho fatto un preambolo, però in realtà le chiedo di spiegarci direttamente questa proposta, che riguarda diciamo anche il suo impegno di sindaco per la gestione dei centri estivi. Tra poco dovrebbero cominciare anche le materne nel mese di luglio, le materne che sono aperte fino alla fine di luglio, quindi diciamo il tempo per riprendere un'attività più o meno regolare c'è. Lei perché si è sentito di fare questo invito e ha scritto una lettera al presidente Fontana? Beh, ho fatto questa lettera perché guardo il territorio, quindi vedo i nostri ragazzi come adesso ai centri estivi si stanno trovando, si stanno comportando. E chiaramente il mio appello non è una proposta e non è assolutamente frutto di incoscienza o superficialità, ma è una semplice proposta di applicazione delle regole con un buon senso. Ora che il caldo sta iniziando a farsi sentire, considerando sempre che la mascherina è un presidio fondamentale, però sì, ritengo anche utile che sia necessario utilizzarla con intelligenza, cioè non utilizzarla in tutti i momenti, perché i ragazzi in effetti fanno fatica a portarla. Anche perché, scusi sindaco, anche perché ricordiamoci sempre che c'è l'altra regola, che i bambini, anche quelli diciamo piccoli, ma che hanno superato un'età, l'età della capacità di comprendere, parliamo dei bambini elementari, quello del distanziamento, sono in grado di capirlo. Quindi fermo restando che l'epidemia sta arretrando, che si riesce anche magari con piccoli gruppi a tenerli un po' distanti gli uni dagli altri, forse lei dice è arrivato il momento di fare questo passo. Ma lei si sente, come dire, in minoranza in una proposta del genere? Pensa che cadrà nel vuoto, oppure sente, come dire, che c'è anche una spinta intorno a lei direi anche una spinta di coraggio, mi viene da dire, perché bisogna guardare avanti con un po' di fiducia e di coraggio, visto che l'epidemia oggettivamente è insomma ridotta ai minimi termini adesso, poi per il futuro non siamo in grado di dirlo. Ah, assolutamente, io credo che se spieghiamo ai ragazzi le regole basilari, i ragazzi sono assolutamente capaci di comprenderle e anche di rispettarle. È vero che non verranno magari rispettate al 100%, ma questo potrebbe essere anche un test di formazione per quando ritorneranno a scuola, perché non dimentichiamoci che fra 2 mesi dovranno ritornare sui banchi di scuola, e le proposte che sentiamo ci preoccupano anche come amministratori, ma anche come genitori. Quindi questo potrebbe essere anche un test per formare i ragazzi ad essere abituati all'uso intelligente della mascherina, non sempre. Quindi lei dice facciamo anche delle prove, adesso che i centri estivi sicuramente non hanno lo stesso numero di frequentatori, esatto, che avranno le scuole, proviamoci adesso che l'epidemia sta rallentando, vediamo come va, almeno per la ripresa delle scuole a settembre avremo alle spalle anche un esperimento. Grazie Sindaco Walter Cecchin, grazie per essere stato con noi. E anche direi per questa proposta, che ha il merito di guardare anche oggettivamente alla condizione in cui ci troviamo. Lo ripeto, l'epidemia sta sicuramente in una situazione di rallentamento, di indebolimento, in questo momento preoccupa meno, è forse questo il momento di prendere coraggio e fare, non dico di fare feste o assembramenti, ma insomma di lasciare per esempio i bambini, che secondo vari studi sono anche poco contagiati e probabilmente anche quasi per niente contagiosi, la possibilità di riprendersi un pezzo della loro vita. 13:28, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Dopo la proposta di Conte di un taglio dell'IVA interviene il governatore di Banca Italia Visco, dice serve una riforma complessiva. Salvini, il taglio avrebbe il voto della Lega. Condizioni stabili per Zanardi, sentiamo una pressione fortissima, dice il direttore sanitario dell'ospedale di Siena dove Alex è ricoverato. Oggi i medici valutano se interrompere il coma farmacologico. Omicidio Sacchi, prima condanna a 4 anni per droga a Princi, amico di Luca. Calcio Serie A, oggi si riprende a giocare in campo Lecce Milan, Fiorentina Brescia e Bologna Juventus. Il punto di Alberto Orioli. Cosa resta di questi stati generali? Una sfilata di protagonisti degli interessi organizzati, di manager di fresca nomina e obbedienza, delle società partecipate pubbliche, un po' di volti noti che hanno dato alla settimana dell'ascolto perfino un tocco glamour. Poi un copione giornaliero, i protagonisti invitati a evitare esternazioni, il messaggio riassuntivo affidato al Premier, in un ciak quasi vespertino tra podio regale, bandiere e villa a fare da sfondo. Esito, rafforzata l'immagine del Presidente del Consiglio e del suo governo, in modo che sembri del tutto conseguente poter dire di voler reinventare addirittura il Paese, altro che riforme di cui si parla senza esito da anni. In attesa di reinventare il Paese, però, fuori dai cancelli della villa le polemiche di sempre. Lo scontro tra il partito del taglio dell'IVA contro quello del taglio del cuneo fiscale, quello tra i fautori dell'alta velocità contro i no-TAV governativi, quello tra chi vorrebbe rilanciare i contratti a termine senza clausole e i 5 Stelle contrari, l'altro tra chi vorrebbe prorogare la cassa integrazione senza limiti e chi invece dice stop, infine la rotta di collisione tra chi vorrebbe estendere il modello Genova a tutte le opere pubbliche e chi invece dice no. Dopo gli stati generali, insomma, il consueto stato d'ansia.